get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Eccoci qua, bentornate, buonasera a tutte, buon anno da tutte noi del coordinamento lesbiche romane con i nuovi appuntamenti attraverso i liberi microfoni di Radio Onda Rossa all'interno del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87 e 900 MHz. Allora, a proposito di liberi microfoni, vi ricordiamo che questa radio non trasmette pubblicità e vive grazie ai contributi volontari delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Perciò è sempre il momento giusto per contribuire al sostentamento di Radio Onda Rossa. Si può fare compilando un bollettino di conto corrente postale, prendete nota, sul numero di conto corrente 618-04001, intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185 Roma, con causale sottoscrizione. Oppure potete andare sul sito www.ondarossa.info e cliccare sull'icona Sostieni. Allora, oggi in trasmissione sono la cecata di Napoli, Annalisa, che ho un problema pure a leggere, che vi sta parlando appunto, Lucilla e Rosina. Buonasera. Non fate le timide, ragazzi. Buonasera. Per la trasmissione di oggi abbiamo soprattutto pensato di proporvi un'intervista in esclusiva con Giovanna della Casa Internazionale delle Donne di Roma e sul suo importante lavoro che andremo a scoprire insieme. Per adesso fermiamoci qui, vi ricordiamo che ci piacerebbe avere anche qualche vostro commento al riguardo, per cui ecco il nostro cellulare sul quale scrivere gli sms. Vi ricordo il numero che è il 339-853-6270. Questo cellulare resta attivo fino alla fine della trasmissione alle 22 circa. Nel corso della trasmissione metteremo come sempre anche degli attacchi musicali che avranno come interpreti, per una scelta ragionata e fortemente voluta, esclusivamente solo donne. Ma adesso dovrei partire col primo brano. Chi ce lo presenta? Io. Sì, allora aspettate un attimo che lo devo leggere il titolo. Che è For Non Blondes, What's Up? Still trying to get up that great big hill of hope. I realized quickly when I knew I should that the world was made of this brotherhood of man, for whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I start feeling morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, mm, hey, yeah, mm, hey, yeah, what's going on? And I say, and I try Oh my God, do I try? I try all the time in this institution, and I pray. Oh my God, do I pray? Oh my God, do I pray? I pray for a revolution. And so I cry sometimes when I'm lying in bed, just to get it all out what's in my head. And I start feeling a little peculiar. And so I wake in the morning, I step outside, and I take a deep breath, and I get real high, and I scream at the top of my lungs. That great big hill of hope for a destination. Allora, risiamo qua insieme e, come vi abbiamo detto, abbiamo un ospite per noi d'eccezione ed è Giovanna Olivieri della Casa Internazionale delle Donne di Roma. E per noi è un grande piacere ospitare Giovanna, con la quale facciamo molte iniziative, molte attività in comune alla casa e per il centro femminista separatista del quale ci onoriamo di appartenere tutte. Allora, noi abbiamo invitato Giovanna perché fa un importante lavoro alla Casa Internazionale delle Donne ed è un lavoro che riguarda la memoria storica e l'archiviazione. E intanto la prima domanda che le rivolgiamo è, visto che il progetto al quale lavora è Archivia, che cos'è Archivia? Buonasera, sì, grazie, sono Giovanna Olivieri. Dunque, Archivia nasce nel 2003 raccogliendo 11 fondi di varie associazioni e vari gruppi che avevano raccolto a Roma documenti, libri, giornali, riviste, volantini, magliettine, spillette, eccetera, che facevano parte della storia del movimento. Erano sparsi in vari ambiti, quindi quando è nata la Casa Internazionale delle Donne noi ci siamo attivate per poter fare questa nuova associazione che raccoglie tutti questi materiali. Ci sono tantissimi libri, in questo momento noi abbiamo schedato tutta la saggistica che quindi è consultabile online sull'OPAC SBN e facciamo parte del polo della sapienza perché abbiamo scelto di stare vicine all'università, in quanto da noi ci sono tantissime giovani studiose, ricercatrici, eccetera, e quindi era importante questo. E abbiamo anche una schedatura che funziona con il circuito dei centri di documentazione delle donne, che si chiama la rete Lilith, che è un altro modo di schedare i documenti e i libri delle donne, perché hanno altri indici, ha un soggettario particolare, altri abstract, e quindi che danno un'idea molto più approfondita di quello che è il patrimonio di questa storia. Naturalmente vari sono i fondi, partiamo da il fondo della rivista Noi Donne, che si chiama in realtà Cooperativa Libera Stampa perché è la proprietaria del fondo, che nasce appunto nel 1944 e che ha tutta una sua connotazione. Ci sono 30.000 foto dell'archivio fotografico di Noi Donne, una parte è stata schedata e abbiamo prodotto poi un lavoro molto importante sulla storia delle donne romane a partire dall'archivio fotografico, non solo di noi donne. Poi c'è il Centro Documentazione Studi sul Femminismo, che nasce nel 72 a Roma e raccoglie dall'epoca tutti i libri, i documenti, è un fondo ricchissimo sia per quel che riguarda la parte biblioteca sia la parte archivistica. Più un altro importantissimo centro è quello dell'ex consultorio autogestito del centro Simonetta Tusi, che stava qui in via dei Sabelli, che invece racconta tutta la battaglia sull'aborto, sui viaggi a Londra per l'aborto, sul self-help, eccetera. Più naturalmente il centro di Alma Sabatini, che invece è intitolato a questa donna importantissima in Italia per i suoi studi sul sessismo nella lingua italiana, pubblicato all'epoca con la Commissione Pari Opportunità Nazionale, e anche l'archivio del CLI, Collegamento Lesbiche Italiane, che è uno dei gruppi storici del lesbismo italiano, perché nasce nell'81 e nell'86 fonda l'archivio e quindi raccoglie tutti i materiali prodotti dal lesbismo nazionale, soprattutto quello vicino al femminismo, dall'81 fino ai giorni nostri, e che ha una ricchissima collezione di riviste, perché la bollettina che era pubblicata dal CLI veniva scambiata con tutte le riviste internazionali. Bene, allora la seconda domanda, non so se gliela vuoi fare te, Rosina. Rosina ha mal di testa, ve lo dico, e quindi è qui che partecipa. Dunque, la seconda domanda che ci viene di farti è, e poi manderemo dopo questa cosa un piccolo stacco musicale, è perché è importante la memoria storica e perché quindi tu ci lavori così attivamente, secondo te, e quindi insomma secondo magari altre persone che collaborano insieme a te, no? Dunque, la memoria, è già parlare di memoria è una cosa estremamente complicata, perché a volte la memoria è dolorosa e quindi si rimuove facilmente una parte della storia per motivi assai diversi. E sicuramente noi abbiamo pensato che per avere un minimo di eredità alle giovani donne che si affacciano oggi al mondo, diciamo, organizzato, degli studi, delle ricerche, eccetera, occorreva poter avere un luogo dove c'era un patrimonio, perché le donne non hanno eredità perché non c'è un patrimonio, e non c'è un luogo in cui questo patrimonio è visibile. Nella nostra biblioteca, quando si entra e c'è solo la saggistica al momento fuori, perché tutta la narrativa è purtroppo in magazzino, stiamo aspettando i nuovi locali, rimangono colpite da questa mole immensa di libri, circa 20.000 già tutti schedati, che sono scritti dalle donne con argomenti di studio e ricerca per le donne. E non dico poi quando vedono la collezione delle riviste italiane e straniere, oppure la mole di documenti, ci sono delle cose bellissime, volantini, scritti ciclostilati, non sapete che una volta si faceva tutto col ciclostile, no? E per questo mi viene da fare una precisazione, no, una domanda all'interno della domanda. Fra l'altro, se ricordo bene, ai tempi non si metteva, e come del resto i volantini ora, non si mette mai la data. Ecco. Questo infatti è uno dei problemi della memoria, nel senso che le donne sembra che non abbiano un'idea del tempo, vivono tutte nel presente, quindi noi non solo i volantini, ma i manifesti, a volte anche gli articoli che sono stati ritagliati, eccetera, non si sa di che anno sono, non parliamo poi delle fotografie, quasi mai sono datate. E quindi noi abbiamo una scritta tipo 8 marzo tutti in piazza Farnese, 8 marzo di che? Spesso non sono neanche firmati, quindi non si sa neppure chi aveva fatto queste cose. In questo lavoro che è stato fatto per la fondazione che ce l'aveva, la Fondazione Roma, che ce l'ha poi finanziato e che aveva approvato il progetto, noi abbiamo fatto una mappa dei gruppi femministi, ma è una piccola mappa dei gruppi che hanno lavorato a Roma e ne sono usciti fuori 278. Di alcuni si sono trovate soltanto delle tracce minime, poi certamente scartabellando dentro tutti gli archivi ci sono poi delle altre cose che si possono ritrovare, no? E quindi questo della data, questo della firma, questo anche del cercare di capire che cos'è che è successo è importante. Naturalmente, se stiamo parlando di memoria, però c'è da fare alcune puntualizzazioni. Uno, che la memoria che abbiamo noi è una memoria estremamente particolare, nel senso che noi abbiamo quello che è scritto e quello che è scritto è solo una piccola parte di quella che è stata la storia del movimento, perché naturalmente non tutti scrivevano, non sempre quello che si scriveva è stato conservato o considerato degno di essere conservato. E in più quello che era lo scritto non sempre è sufficiente a illustrare quello che ruotava attorno, diciamo così, a un argomento. La seconda questione è che dovremmo integrare spesso quello che viene pubblicato dai giornali, che comunque ha una certa attendibilità almeno sulla data in cui è stato fatto, non è esattamente quello che era successo, perché ci sono spessissimo polemiche, lettere di donne che scrivono ai giornali dicendo: avete pubblicato delle merite stronzate, fandonie, sì. E quindi insomma questo discorso di ricostruire questa storia è un lavoro appassionante, occorre avere sicuramente l'istinto della giallista, cioè cercare il delitto, trovare gli indizi, possibilmente trovare il colpevole, quindi è un lavoro anche molto divertente, perché poi si vedono, per esempio, se tu fai anche una semplice mappa di tutti i gruppi, vedi che ci sono stati gruppi che sono nati, le stesse persone poi ne hanno fondato un altro, poi si sono aggiunte alcune, poi il gruppo si è spaccato e quindi una metà è andata a fare un altro gruppo, ed è veramente una galassia, come quando fai la rete delle relazioni, insomma. È molto interessante, molto appassionante, direi. Allora, mandiamo un altro. Vorrei aggiungere soltanto una cosa: io ho avuto il piacere e anche l'onere, direi, di lavorare con Giovanna alla sistemazione, abbastanza approssimativa da parte mia, per quanto mi riguarda, ovviamente, degli archivi lesbici italiani, quindi dell'ALI, non parliamo di archivi. E devo dire che mi sono molto divertita, come Giovanna ha detto, ho imparato moltissime cose e soprattutto ho capito che, oltre all'istinto della giallista, io questa cosa l'ho già detta, bisogna avere anche una grandissima propensione al pettegolezzo, perché quando si raccolgono e quando si cerca di riordinare questo materiale, tra l'altro è un materiale veramente infinito, se mai qualcuno avesse l'idea di lavorare con Giovanna, ve lo sconsiglio, perché lei è una conservatrice nel profondo, lei conserva qualunque cosa. Ogni tanto io cercavo di eliminare delle tracce del passato e lei: no, questo non si può buttare, ma è una pubblicità, no, quella va tenuta perché magari era presente in una, lei riesce veramente a recuperare, io non so con quale straordinaria capacità ci riesca, però insomma riesce a farlo, riesce a risalire, non so, magari alla data di un documento semplicemente vedendo, riconoscendo la grafia. Mi ricordo una volta ha riconosciuto la grafia di Rina Macrelli e quindi hai stabilito che quel documento, che era appunto anche lui privo di data, doveva essere necessariamente di quel periodo, di quel convegno preciso, perché appunto era stato firmato da Rina, era stata straordinario, devo dire straordinario. Allora, facciamo un piccolo stacco musicale ricordando alle ascoltatrici che potete chiamare in radio, cioè fare dei trillini, dovreste chiamare anche per farci capire che siete all'ascolto e che gradite, allo 06 49 17 50. Adesso andiamo con l'altro pezzo musicale che ci dirà sicuramente nel suo perfetto inglese, inglese, sì, assolutamente. Annalisa, vai. Allora, Melissa Etheridge, Obiezze Cora. L'ho detto bene questo. Peace of my heart. Perfetto. Like you were the only thing that a woman possibly can. Well, you know I did. But each time I tell myself that I think I've had enough, oh, I'm gonna show you, baby, a woman can be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take it, take another little piece of my heart now, baby. Break another little bit of my heart now, darling, yeah, yeah, yeah, yeah. Have another little piece of my heart now, baby. You know you got it if it makes you feel good. On the street, looking good. And honey, deep down in your heart, child, you know that it ain't right. You never, never, never, never, never hear me when I cry out at night. And honey, I cry all the time. But each time I tell myself that I can't stand the pain, you take me in your arms and I'm singing once again. I want you to siamo nuovamente qui, sempre con Giovanna, la trasmissione è a lei dedicata. Allora Giovanna, nella introduzione che ha fatto nel parlarci di che cos'è Archivia, ha già introdotto alcune altre domande che noi volevamo farle. E intanto a quale utenza si rivolge alla romana, si rivolge Archivia e l'altra cosa, intorno a quali progetti che penso siano un po' domande che si intersecano tra di loro, intorno a quali progetti lavora Archivia? Allora, l'utenza è una delle cose più interessanti di Archivia, nel senso che noi cerchiamo naturalmente di rendere consultabile, ritrovabile questo patrimonio di cui parlavamo prima. E approfitto anzi per dire che Archivia è aperta il martedì e il mercoledì dalle 10 alle 17, il giovedì dalle 16 alle 20, e il servizio è gratuito naturalmente. Ci sono quindi delle persone che ti aiutano? Sì, in questo la struttura è abbastanza complessa perché c'è una responsabile della biblioteca, la direttora della biblioteca che è Stefania De Biase, poi lo collego ai progetti. Noi abbiamo una rubrica che si chiama Leggerite, che sta sul sito della Casa Internazionale delle Donne, in cui facciamo delle recensioni e delle segnalazioni delle novità librarie. Questo invece è curato da una nostra socia molto importante, che è Stefania Zambardino. E poi c'è una responsabile archivistica, Ambretta Rosicarelli, che si occupa di tutta la questione che riguardano gli archivi, quindi diciamo si lavora sotto la sua supervisione. E poi ci sono la bibliotecaria, che è Mila Corvino, che fa tutto l'inserimento dei dati in SBN, eccetera, e quindi è anche il lavoro di consultazione, di reference, eccetera. E Tiziana Busti, che invece è quella responsabile di tutto il settore delle riviste. Poi c'è un'altra importantissima volontaria che ricordo sempre con molto affetto, che è Irene Baldi, che essendo di fatto una scienziata, fa un lavoro meticoloso di riordino, sistemazione, catalogazione, eccetera, no? E l'utenza che viene è veramente della più varia, perché abbiamo avuto docenti universitarie straniere, americane, canadesi, australiane, sudamericane, che vengono a fare l'anno sabbatico in Italia e quindi fanno ricerche sul femminismo europeo, e quindi in particolare sul caso italiano, perché effettivamente è un caso molto particolare, oppure fanno ricerche su materiali che abbiamo noi, perché magari approfondiscono alcuni temi che riguardano la storia delle donne, dalle lotte per l'emancipazione, oppure dalla lotta per l'aborto, oppure a certi studi che sono stati fatti in Italia. E questo è un primo settore. Poi un'altra parte dell'utenza sono ricercatrici e dottorande che stanno facendo tesi di dottorato, oltre naturalmente alle studentesse universitarie che vengono a fare le tesi, perché questo è un aspetto interessante. Poiché adesso esiste un patrimonio, esistono anche delle donne che possono fare ricerche, perché noi aiutiamo tantissimo le ragazze che vengono a fare una bibliografia, perché spesso non sanno cosa possono trovare, hanno un'idea molto vaga. Già il fatto che tutto il nostro catalogo è online fa sì che oggi, quando vengono, già un po' di idea di che cosa stanno cercando ce l'hanno, o comunque ci vengono perché sanno che abbiamo molto materiale. Poi ci sono a volte anche semplici studentesse delle scuole superiori che vengono a fare una ricerca, oppure fanno una tesina per l'esame dell'università. E ci sono anche giornalisti, scrittori, scrittrici, giornaliste che devono fare dei servizi particolari, o per la TV, o per la radio, per il giornale. E poi anche molte filmmaker, cioè molte registe che hanno bisogno di materiale, cioè tipo anche Alina Marrazzi, che ha fatto questo bellissimo film, ha cominciato da noi, facendo ricerca da noi. Quindi ci sono tutta una serie di soggetti che arrivano da noi e trovano fondamentalmente tre cose di qualità assoluta, che sono: uno, il materiale; due, le reference, cioè noi siamo in grado di guidarle in questo percorso; e tre, una cosa che pochi possono garantire, cioè tutti i contatti necessari per poter fare degli approfondimenti. Tipo, non so, una vuol fare un lavoro sulla rivista F, mettiamo, e allora noi siamo in grado poi di metterle in contatto con chi ci ha lavorato, la redazione, oltre che con i materiali che sono lì, o così per qualsiasi altro tipo di, diciamo, di richieste che ci sono. Poi invece, per quanto riguarda i progetti, noi li facciamo su tre assi fondamentali, sono tutti decisi dal consiglio con le socie che ci lavorano, e questi progetti sono: uno, l'asse è quello di sistemare, schedare, catalogare. C'è stata una prima fase molto difficile in cui tutto era negli scatoloni, quindi ha richiesto tantissime energie questa fase, e rendere quindi fruibili e accessibili i materiali. Questo è uno delle, diciamo, che va avanti nel tempo. Il secondo invece è quello di produrre dei materiali che facciano uscire gli archivi dagli scaffali. E quindi una delle ipotesi su cui noi lavoriamo ogni anno è di fare un progetto che porti a un pubblico diverso da quello che frequenta la biblioteca i materiali che abbiamo. Quindi vengono fatti interventi ai convegni con produzione di materiale iconografico, tipo al convegno su Carla Lunzi. Noi abbiamo fatto un percorso molto che ha interessato moltissimo il pubblico che c'era su la Lunzi in biblioteca, cioè quanto viene detto sulla Lunzi che noi abbiamo, per cui era venuto fuori tipo una cinquantina di slide che documentavano per varie sezioni questo percorso. Abbiamo fatto delle mostre di manifesti, mostre di materiali che abbiamo, e abbiamo prodotto questo CD Roma Città delle Donne, che produceva, che aveva una storia generale delle donne a Roma, e un focus particolare sul femminismo, le lotte, corredato da moltissimi materiali fotografici. Stiamo adesso procedendo alla schedatura dei materiali audiovisivi che abbiamo. Ci sono tantissime cassette di convegni, di incontri, di dibattiti che finalmente vengono digitalizzati e speriamo anche poi schedati, eccetera. E il terzo invece settore è l'attività culturale che fa Archivia, per cui noi presentiamo a volte dei libri che ci sembrano particolarmente interessanti, che riguardano la storiografia del movimento delle donne, oppure produciamo incontri di studi, laboratori sugli archivi, eccetera. E anche diciamo così, tipo il premio Bartoloni dedicato a una giornalista che abbiamo fatto quest'anno, rassegne di documentari per noi su donne importanti, per noi significativi, oppure anche attività diciamo così più di diffusione, per cui non so, facciamo incontri con le scuole su temi particolari, ogni anno ne proponiamo qualcuno sulla sessualità, sul corpo, sulla lingua sessista, e quindi queste sono delle attività che noi facciamo proprio per coinvolgere il pubblico su una storia che noi pensiamo sia utile, non solo che sia conosciuta, ma proprio diciamo intuita, no, in qualche modo, perché quello che manca è questo aspetto che non si sa. Che non è soltanto quello dell'intuizione, ci viene da dire a noi, ma è anche quello della trasmissione, che è quell'altro aspetto che è legato alla memoria, ma che è tanto difficile da capire. Così come hai detto tu, nel muoverti intorno a questa questione così importante che è la memoria, poi la trasmissione. Che cosa se ne fa della memoria? Cataloghiamo, e poi c'è il problema della trasmissione. E penso che questo discorso, ad esempio il lavoro nelle scuole, così come il lavoro, l'aprire, no? Il far fruire questo materiale a più utenza possibile, è l'altra questione, è come quindi utilizziamo la memoria, come la si trasmette. E poi altro discorso è come poi le donne la utilizzano, questa memoria. Sì, è altra storia, no? Sì, uno degli aspetti che insomma a me piacerebbe moltissimo mettere in cantiere, ma che è complicato da organizzare, ci stanno provando, c'è una nostra socia che sta facendo tutta una serie di interviste, e che per tutto il problema che dicevo prima, cioè che cos'è che noi abbiamo conservato veramente, che idea se ne viene fuori da questo, no? E che però tutto diciamo questo periodo storico molto importante avrebbe bisogno di un'illustrazione attraverso le memorie, che spesso non dicono affatto come sono andate le cose. Questo lo dobbiamo dire, perché spesso vengono pubblicati dei libri di memorie in cui non è chiaro questo concetto, per cui quelli diventano la storia, quelli sono invece il racconto delle protagoniste di quegli avvenimenti attraverso il filtro della loro memoria, che come dicevo prima la memoria è dolorosa, e a volte quindi si fanno delle rimozioni incredibili, oppure una si fida del ricordo. Ci sono degli aneddoti assolutamente divertenti, per esempio che quando io dico questa foto è stata fatta nel 1972, la prima manifestazione, anche l'unica, in cui la polizia picchia il movimento femminista con Alma Sabatini, c'è la foto, e discuto con alcune che ci alcune protagoniste dell'epoca e loro mi dicono: ma no, ma questa non era il 72, questa era il 73 o era il 74. Tu gli porti il giornale con su scritto in alto, no, stampato venerdì 8 marzo 1972, c'è sbagliata la data del giornale. cioè dovresti aprire una questione estremamente complicata per dirgli che il giornale avrà raccontato anche delle balle su quella manifestazione, ma la data di quella manifestazione non è da mettere in discussione, ma non c'è verso. E del resto questa è la nel senso, si sta facendo tanto e le donne in particolare fanno tanto proprio sulla memoria e sul raccogliere le testimonianze, perché come dicevi tu, certo, la testimonianza non è la storia, ma è la storia di quella persona, è il racconto di un evento che ti dà un colore, certo, vissuto da quella determinata persona, ma che sicuramente dà e da una parte il colore e dà un senso alla storia più generale, perché la storia poi viene fatta anche dalle singole persone e quindi dalle donne che hanno partecipato. Sì, però giustamente va collocata. Sì, per esempio, se tu prendi, che ne so, la storia del governo vecchio, che è la prima casa occupata a Roma e dall'MLD, e allora sai, tu puoi, io ho fatto anche una cronologia di tutto quello che era successo al governo vecchio, almeno di tutti gli eventi, i gruppi che c'erano, sperando che poi chi aveva ulteriori informazioni la potesse aggiungere, no? Però se uno non legge per esempio questo intervento della Fraire che racconta di questa scena, no? Di lei che arriva al governo vecchio, dunque non c'è la luce perché per un anno hanno avuto la luce, tu l'hai anche saputo che non c'è la luce e che era un posto che era proprio occupato, cioè, quindi allora invece c'è questo racconto, si entra in questo antro scuro, c'è una candela per terra, ci sono tutti i giornali perché non ci sono i mobili, ci si siede sui giornali, poi ci sono tutte le cicche, quindi ti ricordi che all'epoca si fumava dappertutto, no? E quindi ti ridà un'idea, diciamo, del governo vecchio, che non è che aggiunge molto alla storia di quel posto. Però effettivamente in questo racconto, oppure quando, non so, la Cambria racconta di come è nato il manifesto di rivolta femminile 1970, o lo racconta la stessa, tutti che erano andati al mare, sono messi a discutere, poi si spostavano da qui e da lì, uno pensa che questi hanno scritto il manifesto di rivolta femminile chiuse in uno studio e ognuna diceva una frase in un silenzio, invece nasce proprio in tutto un altro contesto. Quindi da questo punto di vista la memoria, diciamo, viene integrata dal racconto, poi lo storico farà il suo lavoro e l'archivista non deve neanche fare la storia, perché questa è una cosa molto importante, l'archivista mette a posto il materiale in modo che si capiscano i nessi con cui un gruppo ha conservato questo materiale, no? Noi per esempio abbiamo dei gruppi che hanno conservato il materiale tutto mescolato, non hanno fatto nessuna distinzione, quindi tu apri un faldone, ammesso che ci sia un faldone, spesso non c'è neanche quello, in cui trovi il volantino, la lettera, il conto della spesa, l'appuntamento, il pezzo di giornale su cui hanno fatto l'annuncio, no? Invece altri hanno raccolto tutto in un altro modo, quindi questo va mantenuto. Poi lo storico, attraverso appunto tutti i materiali a disposizione, può ricostruire in qualche modo il percorso, perché è importante sicuramente per chi viene, cioè per questo discorso della trasmissione che facevi tu, che nessuno dia una storia preconfezionata, cioè noi dobbiamo conservare, renderlo fruibile e accessibile, cercare di costruire i nessi che coloro che ce l'hanno dato avevano voluto in qualche modo ricostruire, e poi sta alle giovani generazioni farne l'uso che credono e quindi appropriarsi di questo materiale e piegarlo, conoscerlo. Infatti uno dei progetti che prima vi ho dimenticato di dire sono questi seminari che noi facciamo con giovani ricercatrici, a cui diamo dei documenti dell'epoca su un tema che a loro interessa e che poi lo confrontano con quello dell'oggi. Ne abbiamo fatto uno sul corpo e la sessualità, adesso ne stiamo facendo uno proprio sulla le donne e la trasmissione del sapere, partendo dall'esempio dell'Università delle Donne del Virginia Woolf, e questo è importante. Bellissimo, allora io direi di fare un altro piccolo stacco musicale, anzi una canzone proprio, però vi ricordiamo che siete all'ascolto di Una Calamità, sì, di cui ci rendiamo perfettamente conto, e che c'è? Scusate, no, mi sono sentita. E che è una trasmissione che è a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbica autogestito sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle 21.15, mentre il martedì femminista e lesbico inizia dalle ore 17 tutti i martedì. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito ufficiale di Radio Onda Rossa, che è www.radioondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Potete contattarci in radio, il numero ve l'abbiamo dato prima, ve lo ripetiamo, è 06 49 17 50 fino alle 22, oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista ogni giovedì a partire dalle ore 21 al numero 06 68 64 201. Ci potete ancora scrivere, CLR, CEO Centro Femminista Separatista, Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1B, 00 165 Roma. E infine vi ricordiamo, e così abbiamo finito. Ma che brava Lucilla! È vero? Su internet potete, per me è una maga. Esatto, potete anche scriverci perché abbiamo una mail che è contatti@clrbp.it. Oppure consultare il nostro sito web, che è un po' antico, ma ve l'abbiamo detto prima, non ve lo ripeto perché c'è da vergognarsi. Il numero per gli SMS è 339-853-6270. Va bene? Allora, adesso va un pezzo musicale e Annalisa ce lo dirà. Sì, Marianna Fedele in Ruby di martedì. No, Marianne Faithful, Ruby Tuesday. She would never say where she came from. Yesterday don't matter, 'cause it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and then she goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who is gonna hang a name on you? And when you change with every new day, still gonna miss you. Don't ask her why she leaves to be so free. She's gonna tell you it's the only way to be. She just can't be chained to life where nothing's gained and nothing's lost. But such a cost. No time to lose, I heard her say. You gotta catch your dreams before they run away. Dying all the time, lose your dreams and you might lose your mind. Is life a Allora, noi, come ben sappiamo, siamo un coordinamento lesbiche romane. Abbiamo chiamato Giovanna perché sappiamo che lei ha anche fatto un grandissimo lavoro sul lesbismo. E perché, l'ha accennato prima Rosina, ha lavorato per la creazione di una memoria, anche in questo caso, e quindi una catalogazione di alcuni documenti sul lesbismo, creando, contribuendo a creare quello che è stato chiamato ALI. Intanto ci vuoi dire che vuol dire ALI e che cos'è? Allora, ALI è molto semplice, vuol dire Archivi Lesbici Italiani, è nato nell'86 e quando c'era stato il disastro di Chernobyl e quindi non si faceva altro che parlare, non si poteva mangiare l'insalata, non si poteva mangiare il burro, il formaggio, lo yogurt con le fragole, bisognava buttarlo, eccetera, eccetera, e i pomodori, tutto questo. E c'era questo senso proprio di un mondo che non aveva come un futuro, no? E a noi ci è venuto in mente invece che un futuro ce l'avrebbe avuto e che avremmo cominciato a conservare la memoria per quelle che nel futuro ci sarebbero state. Quindi gli archivi sono nati nell'86 e hanno, diciamo, una grossa struttura perché essendo collegato alla redazione del giornale, quindi oltre della bollettina del CLI che è uscita dall'81 al 2001, quindi più di 20 anni, anzi al 2002, essendo un organismo, il giornale, di informazione per tutto, diciamo, le realtà italiane, si diffondeva in abbonamento e quindi arrivava in molti luoghi, non solo in Italia, ma perché c'era poi anche lo scambio con le riviste straniere, e questo ha fatto sì che tantissimi gruppi che esistevano in Italia all'epoca ci mandassero le informazioni per le attività che facevano, per diciamo gli appuntamenti oppure richieste. Abbiamo una raccolta incredibile di lettere, la cosiddetta lesbica di Canicattì che scriveva al CLI e che voleva informazioni. C'erano degli episodi estremamente divertenti, tipo che tu facevi il convegno, ricordo quello dell'85, dove molte donne che venivano da città fuori Roma, perché era un convegno nazionale, scoprivano a Roma che nella loro città esistevano altri 2, 3 gruppi, 4, 5 che si incontravano proprio a Roma, perché ricordiamoci che la visibilità è stata una conquista estremamente importante per le lesbiche, no? Nell'81 c'è il primo convegno a Roma ed è un avvenimento molto importante. Già nell'81 si parla della questione dei diritti civili, quindi ricordiamoci, insomma, che la storia è molto lunga, e questa manifestazione e questo convegno aveva avuto poi un secondo appuntamento a dicembre, perché c'era stato la famosa storia del bacio di Agrigento, dove due donne che si erano baciate in un giardino pubblico erano state diciamo coinvolte in un processo per atti osceni in luogo pubblico, che aveva fatto nascere la prima manifestazione a cui, dobbiamo dirlo, andarono tantissime a fotografare, cioè tutte travestite da fotografe, facendo finta che loro non c'entravano. chiamavano, però in effetti c'era al Pantheon, fu questa manifestazione, no? E c'era un manifesto molto divertente che era presente le figurine del bacio, cioè Perugina, no? Erano due donne che si baciavano nel bacio e veniva portato come, diciamo, sberleffo a sì, questa cosa. Quella, quel manifesto lo ricordo anch'io, e poi è stato anche riproposto nel tempo perché è un manifesto eccezionale, cioè una bella idea, cioè proprio carina, la capacità delle donne fra l'altro di saper fare ironia e quindi di prendere anche certe cose e ributtarle, no? Sì. Poi un'altra cosa, naturalmente sulla bollettina c'erano anche tantissime vignette, io ho fatto anche due libri di vignette, una di Maureen Lister e una di Sara con dei testi aggiunti di Valeria Santini, che raccontano questa storia attraverso i fumetti di che cos'è che erano i problemi. C'era una vignetta bellissima, questa però è di Felice Nusselen che l'aveva pubblicata, che con una manifestazione dove tutte le donne dicevano mia, mia, io sono mia, io sono mia, poi c'era un piccolo fumetto di due, dicevano io sono tua, ma non lo diciamo al movimento, perché era carinissima, era proprio, di diciamo che ce n'erano veramente tante, eccetera. Ora, tutto questo materiale che noi abbiamo ovviamente raccolto, anche lì è stato spesso utilizzato, abbiamo fatto molte mostre, io ho fatto varie relazioni, uno sulle riviste lesbiche in generale, uno sulla bollettina del CLI a convegni storici, e sono state fatte delle pubblicazioni grazie ai finanziamenti del circolo Azione Gay Lesbica di Firenze. Anzi, vi voglio annunciare in anteprima che abbiamo appena deciso di ristampare alcuni di questi libri che sono esauriti, perché insieme avevamo fatto una, diciamo che il CLI ha sempre pubblicato testi in cui credeva, perché essendo una redazione di un giornale aveva anche la possibilità poi di fare una distribuzione. All'epoca c'erano tante librerie delle donne, tanti eventi nazionali, e quindi questi libri avevano una loro pubblicazione. Poi in un periodo in cui l'editoria aveva fatto un salto e quindi si stampava in digitale, quindi diventava anche più facile, perché io ho cominciato quando ancora si faceva la fotocomposizione, e quindi sono anziana, se si vede da lì. Cioè perlomeno sei una da memoria storica. Sì. E, per esempio, per dirvi come nascevano poi i progetti, fu da una vacanza, una mitica vacanza all'Isola d'Elba del 1988, che noi facemmo come CLI insieme al centro documentazione, che nacque il primo fondo economico per questa casa editrice, che partendo dalle entrate di questa vacanza ebbe una piccola risorsa per finanziare l'uscita del primo libro. Poi ognuna di queste pubblicazioni è riuscita, una volta che erano rientrate le spese, a fare il fondo per la pubblicazione della successiva, e quindi siamo riusciti veramente a fare una piccola, un piccolo lavoro di editoria. Ci vuoi dire com'è l'acronimo? Che cosa? Di quella di BLI, Biblioteca Lesbica Inevitabile. Però il nome è successivo alla mia idea, che siccome noi ci chiamavamo Ali, la seconda doveva essere BLI, perché andavamo a B, e poi il terzo era il CLI, quindi sì. Ali, BLI e CLI sono tre acronimi che erano un gioco. Sono preoccupata per la D. È vero, si potrebbe essere bellissimo. Io direi che ci possiamo salutare. Ringraziare molto Giovanna, siamo già uscite un pochino fuori tempo. L'unica cosa che voglio ricordare è che questo venerdì ricomincerà il Casbilè dalle 22 presso la Casa Internazionale delle Donne, che è lo spazio di incontro tra donne. Chi vuole, chi ha voglia di venire, donne lesbiche ovviamente, chi ha voglia di venire è invitata a venire a farlo. E poi sabato 15 gennaio 2011 alle ore 14:30 c'è un'assemblea cittadina sempre alla Casa Internazionale delle Donne di Roma, Donne nella città, strategie dell'agire politico oggi. La costituente della Casa Internazionale delle Donne convoca un'assemblea delle realtà femministe, femminili e lesbiche dell'area metropolitana, singole, gruppi, associazioni, collettivi, eccetera, per mettere in comune, per fare cosa? Per mettere in comune le esperienze e le storie, per raccontarci bisogni e urgenze, per convergere su obiettivi comuni, per confrontarci sulle pratiche politiche. E per di più, dalle 13 alle 14.30, per chi vorrà, ci saranno bruschette e barbecue carnivoro e vegetariano, sempre alla Casa Internazionale delle Donne di Roma, via San Francesco di Sales 1B. E quindi sono pubblici questi incontri e volentieri avviene l'invito. Allora, vi salutiamo, grazie ancora a Giovanni Olivieri. Grazie a voi. E io sono Lucilla, vi saluto, la splendida Voice. Vi saluta anche Rosina, io ringrazio molto Giovanna, è sempre un piacere averla qui con noi. Speriamo in una prossima volta. Confermo, è sempre un piacere sentire Giovanna, oltre che voi. Ecco, e questa è Annalisa, la nostra, la nostra parlatrice in inglese perfetto. Sì, ma infatti purtroppo non ho potuto mettere l'ultimo brano, andiamo con la sigla finale, alla prossima, grazie a tutte. Ciao. I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe.